svegliato alla volata e vedo i treni dei velocisti. No, ma no, ma proprio adesso. Vabbè, diamo la linea a Geronimo. Amiche e amici del ciclismo del Giro d'Italia, del vento, della pioggia, degli inviati che ci danno la linea addirittura in corsa praticamente, come avete sentito Stefano Rizzato in apertura. Benvenuti alla puntata numero, non chiedetemi di saperlo, di Geronimo 2024, il podcast dedicato al Giro d'Italia di Al Vento con l'amorevole e protettivo supporto di Shimano Italia. Siamo in diretta da Padova, da un luogo di cui non facciamo pubblicità, che non sono i tempi giusti, se mai lo sono stati, un luogo dove però noi non potremmo essere, perché c'è un regolamento, l'ho letto molto dettagliatamente, e vi leggo solo l'ultima frase del regolamento. Dice: a fattor comune è prosciolto l'uso di, aperte virgolette, jeans laceri, strappati o scoloriti, virgola, tuta ginnica, scarpe da ginnastica, indumenti laceri, ancorché di attuale moda, bandane, pantaloncini corti e minigonne, canottiere o maglie che lasciano scoperto l'addome, sandali maschili e ciabatte infradito. Io non ho messo i sandali oggi, però i pantaloni corti ce li abbiamo tutti, ce li ho io che sono Filippo Cautz, ce li ha alla mia destra il nostro uomo del sud, Leonardo Piccione. Buongiorno, buonasera, come volete, insomma, scegliete voi la qualità di questo saluto. Ce li ha anche alla mia sinistra il nostro uomo del centro, che è Michele Pelacci. Buon mezzodì, perché qualcuno ci ascolterà precisamente a mezzogiorno anche, no? Non sappiamo la statistica. Sappiamo che se ci ascoltano, soprattutto se ascoltano le nostre interviste, una parte, una grossa parte la dobbiamo al team Cofidis, che ringraziamo sentitamente, perché quest'oggi la nostra giornata si è aperta con una peripezia, sì, perdendo un registratore. La stavo facendo grossa oggi. La stavi facendo grossa, ma fortunatamente c'è collaboratività anche con le squadre. Noi abbiamo perso il registratore nella zona bus e abbiamo chiesto alle squadre se lo avvistavano. È stato avvistato e l'abbiamo recuperato all'arrivo. Esatto, è stato avvistato dalla Cofidis, perché abbiamo intervistato un corridore della Cofidis che più tardi sentirete. Ma io vi volevo dire che oggi mi sento a casa a Padova per due motivi. Il primo è perché Padova notoriamente è vicino all'Islanda, quindi anche questo fresco che entra dalle finestre un pochino da questa sensazione, e poi perché ho vissuto 6 anni a Padova della mia vita, ho studiato qui, quindi sono come un piccolo enfant du pays, per quanto non abbia un patavino. Sì, esatto. Michele, ti interrogo, visto che tu sei siamo in una città di studenti, di università, tu sei lo studentello tra noi, questo è risaputo. Prof, sai che Padova... Prof, qui c'è sorpresa, no? Dai, terza settimana. Lo sai che Padova è la città dei 3 senza, no? Certo. Da oggi è diventata città dei 4 senza, ma ora te lo racconto. È la città del santo senza nome, lo sai, Sant'Antonio, perché è talmente celebre, si dice solo il santo. Un altro lo so, è il Prato senza erba. Il Prato senza erba, che è Prato della Valle, dove è arrivata la tappa di oggi, perché non è un prato in realtà, l'erba non ci dovrebbe essere, anche se... Ma c'è una valle, a dire il vero. Neanche una valle, significava insomma una zona paludosa in passato, ed è anche la città del caffè senza porte, così anche oggi citiamo il caffè Pedrocchi, che è questo caffè storico di Padova senza porte perché era sempre aperto. Sono stato e so che da lì deriva il detto stare al verde. Confermi? Bravo, deriva il detto stare al verde, perché una delle sale del caffè Pedrocchi è verde ed è la sala gratuita dove ci si può sedere senza pagare nulla. Ma da oggi, dicevo, la città dei 4 senza, perché è anche la città del treno della Lidl senza Milan. Perché nella volata di oggi abbiamo visto Jonathan Milan perdersi un po' i vagoni che avrebbero dovuto guidarlo verso la volata finale. Milan ha fatto la volata, ma l'ha persa, forse anche per questo errore di posizionamento. Ma ne parleremo ampiamente nella puntata di oggi. Continuo io con... Vai, noi adesso andiamo a berci un caffè, andiamo nella sala verde, che è il nostro posto. Pedrocchi, si beve il Pedrocchino, ottimo caffè alla menta, ma... Beh, c'è dell'alcol dentro o no? No, perché in questo... sai che la regola è rigida, noi non beviamo niente che sia privo di alcol. No, nel Pedrocchino... Anzi, approfittiamone per ringraziare, ci è arrivata una cornucopia molto gradevole di grappa da Luca, mi fa segno. Pelacenzi mi fa lo spelling, come si dice quando... Insomma, fai finta di parlare ma non emetti suono, quella roba lì. quella roba lì, va bene, non viene anche a me la parola, ma mi sono venute, spero, le parole per l'acrostico di oggi, non troppo difficile, Padova, 6 lettere. Allora, applauso ampiamente dovuto oggi, velocista astuto, è stato astuto Tim Merlier oggi. Ti ho pensato anche facendo l'acrostico, Michele, perché con la D ho trovato dovuto, ma mi veniva in mente la parola inglese deserved, meritato. Cercavo un sinonimo di deserved, ma non mi è venuto, ho usato dovuto. Ormai penso come te, mi vengono le parole in inglese. Guarda, non saprei dirti una traduzione migliore, però sei fortunato, perché chi ti ha fatto nella tua città, cioè Sant'Antonio, il miracolo? Antoine de la Cofidis. Tutto torna, no? Antoine de la Cofidis, che è colui che ci ha aiutato a recuperare il registratore che avevo malamente perduto stamattina. Ma andiamo a parlare un po' più da vicino della tappa di oggi, e il modo migliore che noi conosciamo sono, come sempre, le sillabe d'amore di Michele Pelacci, prego. Sotto la pioggia battente di Fiera di Primiero si avvantaggiano 4 corridori: Pietro Bon, Maestri, Honoré e Fiorelli. Gran parte del lavoro in gruppo è svolto da Lidl Trek, Quickstep e Tudor, e il gap si mantiene attorno ai 2 minuti. Ai meno 60 circa evade dal gruppo Edoardo Affini, che nelle prime fasi di corsa non aveva ricevuto la luce verde. Nonostante l'apporto del mantovano, però, la fuga viene ripresa ai meno 10 e a Prato della Valle, nel centro di Padova, è volata. Il treno che si comporta meglio forse è quello della Tudor, ma nell'ultimo chilometro Alberto Dainese si trova corto di uomini e si affida al lavoro della Lidl Trek, che nel frattempo però ha perso Jonathan Milan. Cimolai è l'ultimo gregario a lanciare la volata. I primi velocisti a buttarsi sono Hofstetter e Dainese. Da dietro sopraggiungono a doppia velocità però i grandi favoriti, e a spuntarla alla fine è il mago razzo di Wortegem, Tim Merlier. Il mago razzo, vabbè, lo sa lui che si chiama così nel nostro podcast? No, però sapendo che l'unione, cioè i due soprannomi, no, diciamo, quello non ufficiale, quello italiano, e il suo, bel soprannome direi. Bel soprannome, te la suoni e te la canti da solo come al solito, ma io come al solito vi leggo l'ordine d'arrivo. Ha vinto Tim Merlier su Jonathan Milan e Caden Groves della Alpecin. A seguire il vero enfant du pays, molto più di me, Alberto Dainese, Stanislaw Oniołkowski quinto, Gaviria sesto, Madis Mikkels settimo, Caleb Ewan ottavo, Davide Ballerini nono e Juan Sebastian Molano decimo. La classifica generale non è assolutamente cambiata. Oggi forse dal dentista avete sentito che Tadej Pogacar è in maglia rosa e ha 7 minuti e 42 di vantaggio su Dani Martinez della Bora. Terzo gradino del podio, momentaneo, Geraint Thomas della Ineos a 8.04. A seguire, non vi dico i distacchi, Ben O'Connor quarto, Antonio Tiberi quinto, Taimen Aresman sesto, Romain Bardet settimo, Einer Rubio ottavo, Filippo Zana nono e Jan Hirt decimo. Bravo, ottimo decimo posto in classifica generale per Jan Hirt. Così, non sapevo cosa dire dopo questa tua lettura della classifica, per cui un complimento per Jan Hirt, ci sta sempre quando si parla di Giro d'Italia ed in qualsiasi edizione. Va bene, sono d'accordo, ma facciamo adesso i complimenti preventivi a una persona che non è con noi fisicamente, ma che continua per fortuna a mandarci le sue estrazioni di carte, di tarocchi, che ci aiutano attraverso il racconto di una carta a introdurre uno dei temi o alcuni temi della tappa appena conclusa, appunto. Giromanzia. Buonasera, figlie e figli di Cloris Brosca. Sapevate che le carte, storicamente, ad esempio nel Medioevo, non venivano usate per la divinazione, fino ad un certo punto, fino ad un certo libretto pubblicato in Germania tra il 1505 e il 1510, sapete dove? A Magonza, Magonza, coincidenze Mago, Magonza... Non credo, perché nella giromanzia le coincidenze non esistono, e quindi oggi ha vinto il mago. Ha vinto Tim Merlier, che estrae la carta della torre. Una carta che significa rigenerazione, rinascita, ma anche rimessa in discussione. Lui è tornato a vincere dopo Fossano, dimostrando la sua capacità nella terza settimana di un grande giro. Ma ci ha detto in prima persona, in conferenza stampa, che per ottenere questo successo si è rimesso in discussione, ha fatto dei cambiamenti, ha cambiato delle cose, ci ha lavorato. Allo stesso tempo, però, questa carta, la torre rovesciata, significa crisi, disillusione. È una delle carte più temute per i suoi significati ambivalenti come l'arcano senza nome. La crisi potrebbe essere quella di Dainese, che con un buon treno oggi tutti aspettavamo a Padova. Kautz lo diceva dal giorno 1, a Padova vince Dainese. Potrebbe essere anche quella di Molano, che aveva una delle sue opportunità e ieri era stato tirato in causa proprio da Pogačar, dalla divinità in rosa. Ma non so, a proposito, forse Leonardo Piccione vi avrà detto che la maglia rosa la tiene Pogačar, ma non so. Però oggi è stato un finale molto caotico e quindi nulla. La torre rovesciata significa anche difficoltà ad accettare un cambiamento, ad accettare la realtà, a prenderne atto, e questo potrebbe essere vero per Fernando Gaviria? Però, in generale, soprattutto, questo cambiamento visto raccontato dalla torre è un cambiamento che sa metterci di fronte ai nostri grovigli, ai nostri errori, ai nostri blocchi, avvertendoci dei pericoli che corriamo, per cui dobbiamo evolvere e cambiare rotta. Quindi serve ad avere il coraggio di guardare la verità in faccia e accogliere il cambiamento. Questo potrebbe essere vero per il nostro Super Johnny Milan. È stato un finale più difficile e pericoloso del previsto. Jonathan Milan ha ammesso di aver commesso degli errori. Tutti ormai davamo per scontato che, vista la sua superiorità, avrebbe vinto lui. Ma siamo rimasti un po' così, un po' delusi. Guardiamo la carta. Nella carta vediamo due persone che cadono da una torre. E queste due persone potrebbero essere, ahinoi, i due ultimi uomini del suo treno. Anche appunto con Sonny, intervistato al traguardo, diceva che a un certo punto qualcosa non ha funzionato, lui è rimasto indietro, lo hanno perso. Cadono insieme ad una quantità di palline colorate che si sparpagliano, proprio l'immagine perfetta della volata caotica di oggi. Ma nella carta in cima alla torre vediamo il fuoco. Questo fuoco che non ha solo un'accezione distruttiva, ma un potere rivitalizzante: distruggere per rinascere più forte di prima. E noi siamo sicuri che questo succederà per Johnny e lo aspettiamo a Roma. Addio amici della giromanzia, a domani. Bene, c'era tutto nei tarocchi. L'anno prossimo sì. Noi non ci veniamo al Giro d'Italia. Leggiamo i tarocchi e c'è praticamente l'intera dinamica della corsa e anche le tattiche, se vogliamo. Forse quello che sfugge ai tarocchi sono i fuggitivi, che giustamente sfuggono. È vero, quindi prima di commentare, aggiungere qualcosina su quella che è stata la volata poi in Prato della Valle, facciamo un passo indietro e oggi cominciamo a parlare della fuga, che poi non è andata in porto evidentemente. Una fuga prima a 4 e poi a 5 con l'aggiunta di Edoardo Affini, che ha provato a salire sul treno per rimanere in tema dei 4 attaccanti. Dopo l'arrivo abbiamo incontrato... Quello era quanto mai il treno dei desideri, comunque. Il treno dei desideri. Urge anche Leonardo fare un aggiornamento sulla classifica più importante di tutte. Cioè? Tu non l'hai citata, ma Filippo Fiorelli ha nuovamente vinto il traguardo dell'Intergiro. Giusto, perché Fiorelli era uno dei componenti di questa fuga, insieme a Pietro Bon e Maestri della Polticometa e a Mikkel Frolic Honoré della Education First, altro enfant du pays di questa giornata che abbiamo incontrato proprio dopo la linea del traguardo. Prima che inizi a piovere, Mikkel, una di quelle giornate in cui, anche se l'obiettivo non è raggiunto, l'hai raggiunto lo stesso. Sì, sì, infatti volevamo provare ancora oggi. È un peccato che non ce l'abbiamo fatto, però bisogna sempre provarci e crederci. Comunque sì, è stato bello lo stesso. Ma quanto in questa tua scelta di andare in fuga c'era anche il fatto che si passava dalle tue strade di casa, possiamo dire? Sì, sai che onestamente all'inizio non ho pensato tanto, poi ho visto il momento di andarci e ho detto perché no. Non è che... Cioè no, non ho svegliato stamattina e pensato che volevo andare in fuga, infatti ho pensato che era una giornata un po' tranquilla, ho fatto una colazione leggero e invece è stato bello impegnativo, ma comunque bellissimo correre sulle strade di casa, di famiglia qui oggi in zona di Prosecco e Treviso, quindi no, è stato bello. Quante facce hai riconosciuto a bordo strada? Ho sentito famiglia, amici, ma è stato difficile vederli perché ovviamente dovevamo andare fuori. Passando Treviso era un po' più tranquillo, quindi quindi parecchie famiglia e amici l'ho passato oggi. Ma è vero che sei passati di fronte al luogo dove ti sei sposato? Esatto, è vero, vero. Che è dove? Al castello di San Salvatore, che è appena prima, sì, un po' prima Treviso, vicino a Conegliano, e ho proprio passato in fronte di 500 metri, quindi è stato speciale. Ci devi salutare in Veneto adesso, ti tocca, siamo a Padova, la tua regione ormai. Esatto, mia regione, il Veneto è una regione bellissima, le gente sono sempre aperti e niente. Un saluto in Veneto. Un saluto in Veneto, beo ciò. Sì, un saluto in Veneto, beo ciò. Tutti bei ciao. Alla prossima. Alla prossima. Michele, col Veneto come te la cavi? Meglio o peggio del giapponese? Molto peggio. Molto peggio. Allora non affrontiamo l'argomento del Veneto e passiamo alla volata. Era inevitabile raggiungere questo argomento anche dopo diversi minuti di puntata, perché noi siamo così imprevedibili e ci piacciono le carte guardate per dritto, ma ci piacciono anche guardate per rovescio. E quindi in conclusione, la volata, come è giusto che sia, che è in conclusione, volata incasinata abbastanza. Volata con un po' di errori da tante parti, non so, cosa dici Michele? È vero, tante tessere del puzzle sono state sparse, diciamo. Non so qual è un riferimento tra puzzle e Padova, un collegamento, quindi ti lascio... Entrambi iniziano per Pa. Bravo. Magari ti lascio fare un riassuntino, Filippo, della volata, o ti dico due cose io prima? Dimmi pure. Allora, partiamo da quello che... si è confermato, diciamo, nel prosieguo di questo giro come il treno più importante, meglio rodato, diciamo più affidabile, le carrozze con i vagoni migliori, quello della Lidl Trek, perché in meno di 1500 metri si è fatto un po' sorprendere, ma i soliti sospetti, con Sonny, Teuns e Stuyven, riescono a riportare il velocista friulano nelle prime 6-8 posizioni. Ai meno 800 però, e poi ai meno 600, c'erano due curve a gomito, la prima verso sinistra e la seconda verso destra. Nella prima, Milan, secondo me, teme un po' il calo di velocità davanti, tira un po' troppo i freni e si ritrova indietro. Teuns si porta davanti a tutti, con Sonny prova a richiamarlo, prima a voce, proprio spraitato, con la mano di fianco alla bocca proprio, e poi urlandogli alla radiolina, e fatto sta che è meno 400. C'è una ripresa dall'alto in cui si vedono i due lead del track davanti, ma Milan ha ben 12 uomini davanti, tra cui perfino Mikkels, Andresen e Molano. Per cui si è trovato troppo indietro, questa è la verità. Sì, Milan si è trovato indietro, si sono un po' persi tutti in quelle curve lì. Anche Merlier ha detto di essersi perso in quella curva, di essersi stupito di essersi trovato così indietro. Per cui c'è stato un evidente rallentamento, quando si entra a grande velocità e si rallenta, è chiaro che il mazzo si scombina. Io ho trovato due elementi in questa volata che mi hanno un po' colpito. Uno è il treno della Tudor, che io comunque continuerei a chiamare Tuborg, perché secondo me suona molto meglio e si avvicina anche l'ora di aprirsi una nuova birretta. E oltretutto mi turbi sempre più era lo slogan abbastanza noto della pubblicità della famosa birra, e mi ha un po' turbato, devo dire, il treno della Tudor, nel senso che ai 1500 erano perfetti, solo che erano talmente perfetti, cioè erano in una posizione perfetta ma inadeguata per un treno che aveva solo due uomini per lanciare il proprio velocista. Trentin ha tirato per praticamente un chilometro, e quando Trentin si è rialzato, l'ultimo uomo di Dainese, che credo fosse Froidevaux, me lo confermate, non sappiamo assolutamente se si pronuncia così, si è trovato un po' costretto a lanciare una volata che però non aveva senso che fosse lanciata lì. E infatti io credo che il vero problema della volata di Dainese, che si è comportato molto bene, l'ha fatta con un rapporto molto duro, ma ci stava anche, è stato quello che ha preso veramente tanta aria. Poi non ha fatto una volata lunga, però di aria ne ha presa tanta, stando dietro a un treno così lanciato, ma così composto da così pochi, stavo dicendo binari, invece sono i vagoni. L'altro elemento è stato che è stato questo lavoro dei Lidl, che a un certo punto, quando si sono urlati addosso, ma non sembra negativo, quando si sono chiamati a gran voce, non hanno saputo più che fare. In quel momento la volata è rallentata clamorosamente, è stata lanciata dal corridore che meno ti aspettavi, ovvero Hofstetter, dietro al quale è partito Dainese, appunto perché era lì, aveva bisogno di partire in quel momento, e Milan era un po' indietro. Milan ha provato ad accodarsi agli uomini. Anche Merlir era solo, in quel momento non c'era più un trenino vero che stesse lanciando la volata. Ha provato ad accodarsi, si è affiancato un po' a Merlir, si sono anche un po', non credo siano toccati, però insomma potrei dire che hanno urtato le loro ombre, ecco, potrei descrivere così quel passaggio. Merlir ha vinto questa piccola sfida, ha preso il treno che in quel momento era quello del celeberrimo Stanislav Anielkowski, ha fatto una volata magnifica perché così si fa, si è spostato sul lato il giusto aprendosi la sua corsia e lanciandosi tutto solo e aprendo alle sue spalle un'autostrada per Milan che aveva sì un sacco di spazio, infatti è riuscito a rimontare tantissimo, ma si era perso il momento chiave. Se Milan in quel momento fosse riuscito o a togliere lo spazio a Merlier o addirittura ad accodarsi a Merlier, avrebbe probabilmente vinto questa volata. Hai citato, secondo me, il momento decisivo della tappa, ovvero quando, partiti Hofstetter e Dainese, alla loro ruota ci sono Groves e Anielkowski. Dietro questi quattro fanno spalla a spalla Merlier e Milan. Merlier decide di andare alla destra e si trova tutta la strada libera davanti. Milan va a sinistra. Qui si trova un ostacolo, che è Hofstetter. Se fate frame per frame, Milan smette di pedalare per una frazione di secondo. Probabilmente quella decisiva. Milan avrebbe potuto anche lui continuare a superare Hofstetter verso le transenne, non l'ha fatto. Qui secondo me c'è una caratteristica di Milan che stiamo notando in questo Giro d'Italia, ed è il fatto che preferisca quasi ad ogni costo il centro carreggiata per lanciare la volata, perché è grosso, cioè c'ha bisogno di spazio. non mi stupisce. Ad ogni modo, vittoria assolutamente meritata e di gran classe comunque di Tim Merlier, che anche all'arrivo non si è lasciato in grandi dichiarazioni, come abbiamo capito che non è tanto il suo stile, è uno di quei corridori di poche parole, come spesso capita con i corridori fiamminghi, tra l'altro questa è una conclusione che traggo io, assolutamente non richiesta. Ci ha tenuto a ricordare quanto fosse importante per lui dimostrare di valere nella terza settimana, perché ad oggi era una critica che sentiva spesso. E poi ci ha raccontato un po' del ritiro che ha fatto in altura insieme alla sua famiglia. Non era la prima volta che andava in ritiro in altura in famiglia, e però comunque andava in altura, poi scendevano per andare a mangiare. Insomma, è stato anche abbastanza dettagliato nella routine di questo ritiro e nel ricordare quanto gli stia mancando la sua famiglia. Sta contando i giorni e poi insomma ci ha aiutato a ricostruire la dinamica della volata che abbiamo appena riepilogato. Questo per quanto riguarda... Sì, avete detto praticamente tutto, io non aggiungo altro, se non che forse una sintesi può essere che Tim Merlier, grazie anche alla sua esperienza, alla sua maggiore età, ha quanti anni in più rispetto a Milan? 8 anni in più di Milan, ha più opzioni nel suo, come dire, carnet, nel suo coltellino svizzero, che Milan ancora non ha. Milan tendenzialmente oggi per vincere una volata ha una o due opzioni, la volata di potenza lanciata dal treno, lanciata a centrostrada, come ha detto Michele. Però è un ragazzo del 2000. Sì, può essere. Credo che poi ci sia tanta una componente di colpo d'occhio e di istinto che in buona parte dei casi è innato, che non vuol dire che... Che però si allena anche, si affina, sì, quantomeno. Si affina, in qualche modo si può affinare. E abbiamo citato un sacco di velocisti, abbiamo parlato di colpo d'occhio e di capacità di muoversi nella volata. Un velocista che... ci ha un po' rapito il cuore in questo Giro d'Italia, anche perché, lo possiamo dire abbastanza terra terra, prima non lo conoscevamo, nonostante avesse sì già disputato qualche corsa anche di primo piano, però insomma non era mai approdato a una formazione World Tour, è il buon Stanislav Anielkowski della Cofidis, che stamattina ho avvicinato e abbiamo chiacchierato a lungo, vi faccio sentire alcune delle cose che ci siamo detti. Stanislav Anielkowski, is it correct the pronunciation? Yes, correct. Say it. Stanislav Anielkowski. Okay, almost correct. Almost, yes. In the team they call you Anio. Yes, Anio Stan. Anio Stan, but you have a nickname? Aniołek in Poland is my nickname. Because we are looking for a nickname for you. Yes. And we see that most of the sprinters have nicknames like animals. And so I have the nickname like Angel. Angel. Aniołek is in Polish angel. Yes. Wow, that's an important nickname. Yes, because my surname is Aniołkowski, so the first part is like similar to angel. Because our proposal was the cat, because we like the way you sprint, like jumping from a train to another train. Do you feel like a cat somehow in the sprints? I don't know, I prefer Anya Wake, so that's it for me better. Dunque, siamo partiti dalla pronuncia corretta del nome, che comunque ce l'avevamo abbastanza. I suoi compagni della Coffee Tease erano un po' più preoccupati, ma invece ce l'avevamo. Poi siamo venuti subito al tema del soprannome. Perché, allora, abbiamo parlato col suo DS Roberto Damiani, che ci aveva detto che in squadra è chiamato Anio oppure Stan, come ha aggiunto lui. Noi negli ultimi giorni gli abbiamo trovato un soprannome nostro che è il gatto di Varsavia, ma lui ci ha detto che il suo soprannome abitualmente è Aniolek, e lui preferisce Aniolek al gatto che gli abbiamo proposto, perché in polacco significa angelo. Quindi da oggi possiamo dire che Stanislav Anielkowski ha questo bellissimo soprannome che è l'angelo di Varsavia. Bello. Bellissimo. Non tanto molto da velocista, ma bellissimo. Sì, poi scalatore, più sì. Da gregario sarebbe in realtà, chiaramente. Però insomma, bel soprannome, bel velocista, bel soprannome. Dunque siamo passati a parlare di giro. Lui mi aveva detto di essere felicissimo di essere qui, essere arrivato alla terza settimana del suo primo grande giro, e gli ho chiesto qualcosa di più sull'Italia, visto che avevo visto che ha messo tante foto delle sue vacanze in Italia sui vari social. Yes, I've been in Italy on holidays and I stay after the Giro as well for 3 days. Where are you going? To Naples and Amalfi. So did you see some place in Naples while riding that you want to go back? Yeah, I saw already when we had the stage there. So yeah, it will be nice to visit again this place. It's, I think, a bit different than other cities in Italy. And for sure I will try the local kitchen and Napolitan pizza. Finally free for a good pizza after 3 weeks. Exactly. I can't wait for this moment. Dice che sì, è stato in vacanza in Italia e si fermerà ancora in vacanza per 3 giorni dopo la fine del giro. Andrà a Napoli e ad Amalfi. Al che gli ho domandato se durante la tappa di Napoli avesse visto già dei luoghi così dove tornare in visita. E gli ho detto di sì, che si è guardato intorno durante la tappa, che sarà bello tornarci, e crede che Napoli sia una città molto diversa dalle altre città italiane. Sicuramente potrà provare la cucina locale, una buona pizza. Gli ho detto finalmente libero di mangiare dopo 3 settimane, e lui dice sì, esattamente, non vedo l'ora che arrivi quel momento. A proposito di cibo, di alimentazione e tutto quanto, gli ho chiesto qualcosa del bar di cui lui è proprietario, che è il Port Caviarnia di Nieporet. From last year I opened it in Poland, close to Warsaw, close the lake, Jezioro Zegrzyńskie. So if somebody would like to visit, yes, I welcome. It's a bicycle cafe or a normal cafe? Yes. It's like bicycle cafe. We have the furniture bit with cycling, so the image is cycling. And what's the specialty of the cafe, like food or drinks? For sure coffee. It's like a specialty coffee, latte art, and also the ice cream, homemade ice cream. One of the best in this region, so... I know that in Italy you have really nice and really good ice cream, but yeah, in Poland, in my cafe, you can find as well really good and homemade ice cream. Which is your favorite ice cream? I think pistachio and mirangue with raspberry, yes. L'ha aperto l'anno scorso, dice, vicino a Varsavia, vicino al lago che, con pronuncia pelacciana, direi Jezioro Zegrzyńskie, comunque l'avete sentito pronunciato da Anielkowski, non lo sfido, e dice se qualcuno vuole venire a visitarmi è il benvenuto, quindi se queste state andate... Se fa del caffè, io ci sono, lo fa. Del caffè, sì, ci ha detto appunto, prima gli abbiamo chiesto se fosse un bar a tema ciclistico, ci ha detto che ha un arredamento e le immagini a tema bici, e le loro specialità sì sono il caffè e la latte art. Sai cos'è la latte art? No, la latte art non c'è. La latte art, Pelacci lo sa, Pelacci fa dei gesti, lo sa. È il creare, diciamo, figure sul cappuccino, no? Bravissimo. Con il latte creare delle figure sul cappuccino, e lo sa fare anche il buon Anielkowski, l'abbiamo visto anche questo sui suoi social. E poi il gelato, dice che è uno dei migliori della regione. Lui sa che in Italia c'è dell'ottimo gelato, ma anche al suo bar in Polonia è ottimo ed è fatto in casa. Cioè, caffè e gelato. Caffè e gelato, gusti stasera. Preferiti di Anielkowski, il pistacchio e il lampone. Ma, interessante. Infine, scusatemi, parliamo un secondo di ciclismo, perdonatemi, in questa intervista. E io ero rimasto molto stupito alle sue parole dopo la volata di 100, in cui mi aveva detto di non essere sorpreso dal suo giro. Quindi gli avevo chiesto così quali fossero i dettagli che gli davano una sicurezza così forte all'esordio in un grande giro, in una corsa così importante, anche se è vero che lui aveva già sfidato i velocisti migliori in altre gare. Yes, I could be a small surprise for some some people, but I know how hard I work every day on the trainings and before the Giro, how much I sacrifice to be prepared in my best shape in my life for the Giro. So this result is not a surprise for me. That was in my plan. And I'm happy that all of this hard work pay off with these results, that I can pay off the team for give me the opportunity in this year. I believe that I could be one of the top sprinters in World Tour Peloton. On the team pictures, you had a wonderful mustache. Why did you cut it? It's aerodynamics or what? Now it's more aerodynamics. It's the first part of the year I have mustache, which I grow in November, for Movember we say, okay. The action, and then I keep it a bit longer. I was in the French team, I think it was a good image to be more French. And now I decide to cut it. Was part of my family was against it, and my girlfriend not. Yeah, in the end, it's just the mustache, so I can grow it after. So maybe we can see it back in the fall, in the autumn. Maybe, yes. Thanks so much. Thank you. Ciao. Ciao. E lui dice: potrà essere una sorpresa per alcuni, ma so quanto lavoro duro e sacrificio ho fatto per arrivare nella forma migliore della mia vita a questo giro. Quindi per me non ci sono sorprese. Era nei miei piani e sono felice che il duro lavoro abbia pagato. Poi, vabbè, la nostra chiacchierata è proseguita, non ve la riporto tutta. Abbiamo parlato anche della frattura che lui ha subito l'anno scorso, perché ha subito una frattura da stress alla tibia, per cui non è una frattura da impatto. Sono dovuto andare a cercare esattamente cosa fosse la frattura da stress, e ciò nonostante lui è riuscito a ricostruirsi così tanto, ha fatto le classiche, è sbarcato nel World Tour, per lui è l'inizio di una nuova carriera. L'ultimo pezzo che avete sentito di questa chiacchierata, gli ho chiesto del bellissimo baffo che lui sfoggia nelle foto di squadra, e gli ho chiesto perché l'ha tagliato, e lui dice che non è una questione di aerodinamica, anche se ora è più aerodinamico. Lo aveva fatto crescere per il Movember. Sapete cos'è il Movember? Sì, lo so. È questa iniziativa di farsi crescere il baffo per sensibilizzare. Scopo benefico, sì. Esatto. Esattamente. E lo aveva tenuto perché pensava che in una squadra francese fosse adatto come estetica, perché con il baffo sembrava più francese. Poi però ha deciso di tagliarlo perché la sua famiglia era divisa sul tema, anche se la sua ragazza apprezzava, ma dice alla fine erano solo dei baffi, posso farli ricrescere più avanti, magari li rivedremo in autunno, forse. Forse, e va bene, bella chiacchierata con Anjolkovski, quinto l'angelo oggi, di Varsavia. L'angelo di Varsavia, quinto oggi in volata, una volata che si è disputata con il cielo coperto, ma non aveva ancora iniziato a piovere, poi subito dopo, durante le premiazioni, è venuto giù un temporale simile a quello che avevano trovato i corridori e noi alla partenza di stamattina. Mi sembra di poter dire che il filo conduttore di questa giornata sia l'acqua, la pioggia. La parola del giorno. 今日の一言。ピオジャ。雨。雨。 Mi viene da concludere due cose. Una, che piccione si sente con il sensei, perché come faceva a sapere di questa cosa? Le strade di Leonardo Piccione sono infinite. L'altra, che il sensei si sta affezionando a Michele Pelacci, perché te le sta facendo tutte facilissime. Anche questa solo tre lettere, anche questa però... No, solo tre lettere, non azzardiamoci. Hai ragione. Potrei sbagliarla, però secondo me è qualcosa tipo a me. A me. No? A me. Sì. Sembrerebbe, sì. Direi che, facile, dai. Direi che ti sei comportato bene, come bene sta continuando a comportarsi Tadej Pogacar, sia in corsa, perché ci aveva detto ieri che temeva un po' questa giornata anche per la sua pericolosità, invece... Ma infatti no, devo contraddirti, perché non solo ha perso due posizioni nella classifica della maglia ciclamino, ma è pure stato agganciato al sesto posto da Pietro Bon. Insomma, è crisi ciclamino. Anche non so. Oggi delusione Pogacar. Sì. Però Poggi si è comportato bene ancora una volta. Poggi, anzi, abbiamo scoperto, dobbiamo imparare questa cosa, perché ci viene sempre da dire Poggi, ma abbiamo imparato che la pronuncia corretta è Poggi. Si è comportato molto bene anche con la stampa, con i giornalisti, che onestamente io comincio ad avere l'impressione che abbiano un po' finito le domande. D'altronde, dopo tanti giorni è dura, però insomma è arrivata in sala stampa anche oggi, felice dell'aver portato a termine questa giornata che appunto temeva. Ha dedicato parole molto dolci al suo velocista Molano, che così ha specificato come sia arrivato a questo Giro d'Italia, sapendo benissimo che l'obiettivo era solo esclusivamente la Rosa di Roma, e come si sia messo anche lui a lavorare tanto per raggiungere questo obiettivo, che ancora non è raggiunto ma poco ci manca, sapendo di avere alcune chance, ma dice Poggi è molto difficile poi farle volate per loro, perché di fatto Molano può contare solo su Oliveira. Poi è vero che Pogacar stesso anche ci ha messo il suo contributo qualche volta, ma così è stato molto delicato nei confronti del compagno, così come di Giulio Pellizzari. Abbiamo riparlato molto velocemente di Pellizzari dopo lo scambio di maglia di qualche giorno fa, e mi ha detto che ieri non si sono parlati perché Pellizzari è partito a chilometro zero, attaccato tutto il giorno, per cui non c'è stata l'occasione, ma che oggi si sono salutati e ha visto che ha grande rispetto da tutto il gruppo, è molto forte per la sua età e lo vede come uno dei grandi del futuro addirittura. È una bella investitura questa da parte di Pogacar. Avete detto che le domande, abbiamo detto che le domande ai giornalisti stanno un po' cominciando a finire, non finiscono invece le scoperte o gli scoop che Marta Bacigalupo sta mettendo insieme giorno dopo giorno sulla maglia rosa di questo giro, quindi ascoltiamo il contributo di oggi del Pogaciario. Ormai siete quasi pronti a prendere una laurea in pogaciariologia? Anche io, però come avete capito il filone alimentare culinario mi ha preso, ha suscitato il mio interesse, quindi ho deciso di approfondire ancora. In questo caso, per approfondire, signori miei, mi sono rivolta alla concorrenza o ai colleghi, vedetela un po' come volete. Sono andata a parlare con la stampa slovena, perché chi meglio di loro può sapere tutto su Tadej. In realtà mi hanno confermato fonti dirette e indirette che praticamente ormai Tadej è così esposto che ne sappiamo tanto quanto loro, semplicemente loro forse hanno delle anticipazioni un po' prima. Comunque mi era giunta voce da appunto la collega Kate Wagner, ormai la massima esperta di ciclisti sloveni, questi sandwich commercializzati da una nota catena di supermercati sloveni, che non citeremo perché, come direbbe Kautz, non ci danno dei soldi, quindi alla faccia col cavolo che gli facciamo pubblicità. Ma ci sono i panini Pogacar, insomma i sandwich pubblicizzati e fatti in suo onore. E sappiamo anche da fonti autorevoli, che sempre più autorevoli, che in realtà tutto quello che lui fa a livello di marketing, pubblicità, insomma i marchettoni, vengono poi utilizzati per finanziare il suo Poggi Steam. Ma veniamo ai panini. Questi panini sono di tre tipi, in realtà. Sono abbastanza piccoli, sono piccoli in modo da poter stare nella taschina, diciamo nella tasca della jersey. E comunque volevo dirvi che prima di tutto ho voluto chiedere a un nostro amico, che spero di pronunciare come si deve e che sentirete ancora, David Crmeli, spero di sì, ok, gli ho voluto chiedere se avesse mai provato questi sandwich. Senti, è vero che ci sono i panini, cioè dei sandwich in una catena Pogacar? Ho visto solo le immagini sulla televisione, però non sapevo, quando ho visto sulla televisione sapevo. Prima, non prima di... Vabbè, quando vengo in Slovenia vengo a provarli. Non ho provato ancora. Vabbè, quindi ho dovuto affidarmi ad altre fonti letterarie, perché appunto lui non li aveva assaggiati, li aveva solo visti in TV. Comunque questi sandwich ci sono di tre tipi. Ci sono quelli per gli sprinters, quelli per gli scalatori e quelli per i passisti, ed hanno ognuno reca scritto proprio sopra che hanno un ingrediente segreto, Poggi's secret ingredient, e non facciamo ironia, ma per dirvelo, allora, quelli per i velocisti hanno come ingrediente segreto una salsa di avocado, Quelli per gli scalatori, che quindi dovrebbero essere i più adatti a Taddei, quindi quelli con veramente che mangiandoli ci fanno volare in cima al mottolino, contengono formaggio di capra. No, un caso, capra, così, anche qui coincidenze, mentre quelli più sostanziosi sembrano essere quelli per i passisti. Quindi quelli per i passisti contengono salmone affumicato. Quindi non mi resta che augurare a voi che state ascoltando e ai miei colleghi che staranno ancora registrando, forse non so, buon appetito. Questi panini non devono essere un granché, vi auguro di mangiare qualcos'altro. Il Giro d'Italia è una corsa ciclistica molto intensa. Alcuni sportivi corrono intensamente su degli intensi strumenti a ruote che molti chiamano biciclette. Tutto molto intenso, sì, ma come mai nessuno ci parla mai delle inquietanti verità del Giro? Avete notato, ad esempio, che il Giro d'Italia è sempre stato vinto da un corridore che ha partecipato a quella edizione del Giro d'Italia? Come mai chi non partecipa non può vincere? Ad esempio, come mai Eddy Merckx, niente meno che il più grande corridore di tutti i tempi, non ha più vinto un Giro d'Italia dopo il 1978? Semplicemente perché non ne ha più corsi? O forse ci nascondono qualcosa? Saranno i cosiddetti regolamenti? O forse è un complotto? E se è un complotto, di chi? E se è un complotto, di chi e perché? Sarà forse un caso che nessun templare ha mai partecipato al Giro e non gliel'hanno mai fatto vincere? Sarà forse un caso che la CIA ama così tanto i regolamenti? E sarà forse un caso che Nostradamus non possedesse neanche una bicicletta? Le nostre indagini ci hanno condotto a Maria Mamma Maria. È un nome di fantasia per tutelare la sua identità, perché Maria Mamma Maria è una testimone. Maria Mamma Maria, lei ha mai partecipato al Giro d'Italia? Scusate, prima di rispondere a questa domanda vorrei dire a tutti che mi chiamo Veronica. Ma senta, noi lo facevamo per tutelare la sua identità. Oh, che scema! Sono in verità scomode queste. Certo, certo. Senta, lei, signora, ha mai partecipato... Che non sono Veronica. No, Mamma Maria, lei sì. Ha mai partecipato a un'edizione del Giro d'Italia? Aspetti che ci penso, no. Senta, lei ha mai vinto? Ci penso, no. E come se lo spiega? Strano! Inquietanti parole quelle di Maria Mamma Maria, che nascondono inquietanti verità. E adesso che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, per voi il Giro non sarà più lo stesso. Io più lo ascolto e più mi convinco che abbia discrete ragioni. Forse non tantissime, ma... cioè, effettivamente non ci avevo mai fatto caso a questa cosa di Merckx, che dopo il 78... Cioè, stiamo parlando di Merckx. Cioè, è strano che non abbia più vinto il Giro d'Italia, né altre corse. Questo è un problema che forse non riguarda solo il Giro d'Italia. Sì, saranno i cosiddetti irregolarmente. Che si estende oltre il Giro, e questa citazione dei ricchi e poveri nel cercare il nome di questa testimone, insomma, mi ha anche abbastanza inquietato. Ma direi di andare oltre, perché oggi ci siamo fermati in un posto da un nome splendido. Ne abbiamo visti diversi, però questo qui ha attirato la nostra attenzione. Ci siamo fermati e abbiamo parlato con una guida. Una testimone che ci ha raccontato un po' il significato e la storia di questo posto che si chiama, diciamolo, Zero Branco. Finalmente da inizio giro che volevamo fermarci a Zero Branco, un po' perché è il paese di Francesco Rachello, fotografo, nostro carissimo amico a cui vogliamo molto bene, e un po' perché è un posto con un nome eccezionale, e quindi ci siamo fermati a Zero Branco e abbiamo incontrato, chi sei? Cristina. Cristina, chi sei Cristina? Allora, io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia in pensione. Beata te. Sì, sto tanto bene, grazie. Ho fatto 42 anni l'insegnante però. Adesso sono qui a Zero Branco e mi occupo, in una delle ville venete che ci sono qui a Zero Branco, della Biennale d'Arte del Bambino. E quindi oggi volevo raccontarvi... Vuoi subito raccontarci tu qualcosa? Possiamo farti una domanda prima? Certo. Allora, perché si chiama Zero Branco? Allora, il numero zero, la cifra zero, perché? Allora, di preciso non si sa, viene comunque collegata all'acqua, al fiume. Non, dicevano che c'erano delle querce, come quella che c'è qui in piazza, che si chiamano Zerioni, il nome, però diciamo che deriva dall'acqua, quindi zero, acqua. Dai romani che hanno conquistato questa terra, il fiume Zero. E il branco invece? Ci sono il branco? Dei lupi, no, un branco di case. Ah, è il primo insediamento che c'è stato in questo paese, che quindi è sempre... Un paese che però non si chiama paese, come quello che abbiamo passato poco fa. Perché una volta si chiamavano ville, la pieve, villa di Zero, poi si chiamava Zero, il branco è sorto molto dopo. Cosa è successo? Quando i veneziani non avevano più potere nel mare, sono venuti a terra e quindi hanno comprato un sacco di territori qui. E quindi anche il nostro libertino Giacomino Casanova è venuto da queste parti. Vi racconto questa che è stata scritta dal professor Roberto Durighetto, che è un esperto qui di Zero Branco. Nelle sue memorie Giacomo Casanova racconta di essere stato in villeggiatura a Zero Branco. Riferisce poi un piccante e malizioso aneddoto. Avendo insidiato la moglie di un contadino che ovviamente, vista la sua fama di libertino, doveva essere una donna piacevole, di facili costumi, il marito, evidentemente geloso, gli fece trovare sul letto il braccio di un morto per fargli con chiarezza capire quale sarebbe stata la sua sorte se avesse perseverato nell'opera di seduzione. Quindi gli hanno fatto un trattamento tipo il padrino. Bravo, a Casanova. Sì, perché questo qui ovviamente solazzava. Ma io ho letto anche un'altra cosa, cioè che gli tagliarono gli assi di un ponte sul fiume Zero. Quando Casanova lo attraversò, cadde e tutto bello vestito come lui era, si fece il bagno in questo fiume. Credo di sempre sì. Come ripicca, perché aveva... Certo. Sicuramente lui qui a Zero Branco avrà avuto l'opportunità di... Sai, i contadini forse non erano così bravi nell'arte amatoria, non lo so, quindi probabilmente Casanova sicuramente un po'... Avrà avuto più. Vita facile. Sì. Poi un Ma altro... si fa il bagno nello Zero? Io l'ho fatto quando ero piccola, perché il fiume Zero passava dietro la mia casa dove abitavo una volta. Adesso non si fa più. No, meglio di no, perché non so, qualche inquinamento sai che c'è anche dalle nostre parti. E un'altra cosa importante è che anche un'altra... Enrico Fermi si è fermato a Zero Branco, soggiornava... Quando si ferma Fermi... Si ferma. Passava la sua infanzia durante i periodi estivi, ovviamente, perché la Baglia era una signora di Zero Branco. E fra l'altro i miei nonni erano i fattori della villa, quindi tutto si compatta, secondo me, tutto torna. E poi volevo parlare un po' di Giovanni Comisso. Oh, che... Parliamo di Giovanni Comisso. Spieghiamo un attimo velocemente ai nostri ascoltatori chi è Giovanni Comisso. Giovanni Comisso è uno scrittore, ovviamente trevigiano. Oltretutto era stato anche corrispondente per la Gazzetta del Popolo, il Corriere della Sera, perché tutti i tour, lui ha fatto il tour asiatico e quindi ha scritto moltissimi libri, tra cui, avendo soggiornato 20 anni a Zero Branco, La mia casa di campagna, che è un libro molto bello a cui io sono un po' affezionata. Ha parlato di Zero Branco nel questo libro. Adesso ve lo racconto, perché mi piace molto. Il posto, La mia casa di campagna. Il posto mi riusciva bellissimo, pur essendo in pianura, isolato nel verde. Vi scoperso subito alcuni riferimenti con i panorami visti nei miei viaggi. Le montagne sfumavano lontano, cinere come le colline d'Occidente viste da Pechino. Il fiume Zero fluiva lento e brunasto come i canali d'Olanda. Vi erano campi gialli di ravizzone come a primavera intorno a Shanghai. Ciliegi in fiore come nelle montagne di Nikko e prati verdi e grassi come nei dintorni di Londra. Mi parve quasi un'ironia che il villaggio dove era questa mia nuova terra si chiamasse Zero. Quindi secondo me Zero è l'ombelico del mondo. Tutte le bellezze del mondo sono riassunte a Zero Branco. Riassunte a Zero Branco, quindi adesso Zero Branco è un paese di provincia, però fa tante cose, fa tante attività, prodotti agricoli, fa tanta cultura. E quindi, oggi insomma, passa il Giro d'Italia, tra poco passa il Giro d'Italia. Passa spesso da queste parti, sì, dai. Noi andiamo a Padova e chi dal vince santo. Secondo lei? Andiamo dal santo a Padova. Sì. Un pronostico sulla tappa di oggi. Adesso la cogliamo in castagna. Era talmente preparata che non so bene dire il nome, che sei slavo. Ani Olkovski? No, sì, l'anno. Quello in maglia rosa, Pogacar. Pogacar. Oggi potrebbe anche non vincere, non è una tappa. Dai, davvero? Lui. No, oggi non... Hai sbattuto? Sì. Siamo alla 18ª tappa e Michele non ha ancora imparato a non sbattere le porte mentre registriamo, ma ha sbattuto le porte per... cancelli, per far... Sì, cancello tutto. Zero. Wow. Metto volume a zero. Però c'è anche il sindaco qui presente che si chiama? Luca Durighetto. Un sindaco in gran forma. Basta, va, cerco di tenermi in forma, magari non proprio come i ciclisti, però cerco di metterci del mio. Ma tutte le mattine a camminare, ve lo garantisco io. A correre io, in realtà. A correre. Perché lo vedo arrivare ansimante, esatto. Verso le 7. Comunque ansimante. Eh beh, sì. Lo sforzo presuppone anche quello. Ma no, Zero Branco è una cittadina tranquilla. È una cittadina in mezzo al non vero. Non venico del mondo o è tranquillo? Cioè le due cose insieme? No, infatti volevo finire la frase, no? Stavo dicendo che Zero Branco è una cittadina tranquilla, uno la vede così adagiata lungo i corsi d'acqua, nel verde della campagna trevigiana, però in realtà nasconde delle chicche, dei segreti e delle perle che per noi sono unici. E quindi ogni volta che abbiamo la possibilità di far venire qua qualcuno, di fermare qualcuno di passaggio per fargli vedere i luoghi che per noi sono luoghi del cuore, è sempre un grande onore e, devo dire la verità, spesso sono apprezzate. Sì, certo. Sindaco, un saluto zerotino. Ciao a tutti e buon giro. Perfetto, grazie mille. Ciao ragazzi, grazie. Buona giornata. Ciao Cristina. E questo incontro molto simpatico, piacevole, è avvenuto durante la tappa. E ringraziamo ancora una volta Francesco Rachello per le foto bellissime che fa. Con Tornanti, che è il gruppo creato da lui e da Eloise Mavian, e anche per i suggerimenti che ci dà anche quando viaggiamo nelle sue terre. E invece a fine tappa è avvenuto un incontro del tutto fortuito con un ascoltatore, lettore, nonché insegnante, docente, universitario di matematica. Michele, ho detto, siamo in una città universitaria, ho incontrato un professore e abbiamo parlato per qualche minuto mentre fuori diluviava. Allora, per ripararmi dal temporale che si è aperto su Padova dopo l'arrivo della tappa, sono entrato in una gelateria e in questa gelateria ho incontrato Nicola Mazzari, che oltre a essere un ascoltatore di Gironimo e un apportatore di doni di cui parleremo ampiamente in questa puntata, è un professore associato di matematica all'Università di Padova. Siamo in una città universitaria, abbiamo fatto un incontro perfetto. Esatto, ci siamo trovati assolutamente per caso, ma io vi seguo da un sacco di tempo e pedalo sempre ascoltando il vostro podcast. Grazie, però quando non pedali e non ascolti Gironimo, insegni all'università matematica, cosa di preciso mi stavi dicendo? Allora, io insegno di solito agli ingegneri un po' di algebra lineare e ai matematici teorie dei numeri principalmente o cose di questo genere, quindi matematica pura. In che modo la matematica pura ci può aiutare a capire il Giro d'Italia o il ciclismo? Cioè, raccontaci un qualcosa. Ma allora, una cosa di cui forse avevamo parlato poco tempo fa è che se si guarda una bicicletta, se si guarda la striscia che le due ruote lasciano sulla strada, per esempio sulla neve, per avere un'immagine più chiara, si può capire a posteriori, guardando soltanto queste due linee che ogni tanto si intersecano, da che parte la bicicletta si stava andando. Questo non è un problema non da poco, perché a priori sembrano delle linee tracciate a caso e invece, facendo un po' di geometria cosiddetta differenziale, si può capire qual era la ruota davanti, qual era la ruota dietro e qual era la scia lasciata da entrambe e soprattutto la direzione. E questo è un esercizio che tu usi negli esami di matematica all'università o l'hai tirato fuori per noi? No, questo è un po' un giochino che si può dare a degli studenti, gli si può dare una foto o dei disegni di strisce, cercare di ragionare un po' e vedere se lavorando con dei righelli, con della matita, riescono a indovinare un processo per capire cosa sta accadendo, quindi per stimolare un po' lo spirito di ricerca, che è quello che poi noi veramente facciamo tutti i giorni. Ma volendo dare un voto in trentesimi a questo Giro d'Italia, proprio dal punto di vista tecnico oppure della tua passione, insomma, ti è piaciuto, ti sta piacendo, che voto gli dai? Allora, mi sta piacendo molto e, come dire, se uno pensa a Pogacar, la lode o addirittura il bacio accademico è scontato, però in realtà anche le altre storie e le fughe, anche quando non sono riuscite, secondo me erano molto molto belle. Si è rimasto vago, un numero, tu devi dare i voti, voto. Un voto direi sicuramente 28. 28? Buono, ne ho presi diversi di 28. Come... Finiamo il gelato e magari ci cerchiamo uno spritz per rievocare i tempi andati da me di studente di Padova. E i tuoi ancora presenti da... Sì. Perché anche i professori bevono lo spritz. Sì, bevono parecchio lo spritz e comunque continuano a studiare. Giusto, va bene. Grazie Nicola, alla prossima. Grazie a voi, buon giro. Avete sentito dalla voce di Nicola e dalla mia che c'erano dei doni previsti in questo incontro, ce li abbiamo qui di fronte a noi, è una busta dove c'è scritto a penna la parola del giorno, quindi Michele mi sa che oggi hai un supplemento che provo a leggere, c'è scritto, leggila tu visto che sei il diretto interessato. Quell'accento potrebbe essere, diciamo, in Fausto, o miagé, o mia... no, questo è francese. La francese, vabbè. Oddio. Omiyage? Omiyage forse, che secondo me, se non ho capito male, è la traduzione in giapponese di cornucopia, cioè di omaggio, forse qualcosa di questo tipo. Ma Nicola, se abbiamo sbagliato ce lo dirà, ce lo farà sapere. Cito un incontro fatto anche da me, all'arrivo ho incontrato Marco, nostro ascoltatore storico di Stra, posto nella tappa di oggi. Ha detto, ma dimmi la verità, sei tu il sensei? E io gli ho detto, Marco, ti pare che io possa pronunciare così bene il giapponese? No, anche perché sensei prevede la saggezza, ecco. Cioè, era già evidente che non fossi tu. Ma non so che gancio fare, Leonardo, stamattina hai fatto non un farlo, incontro, non vero? Farlo. Passiamo direttamente all'incontro del mattino. Prima di smarrire il microfono, il registratore, abbiamo parlato, perché poi a un certo punto è diventata un'intervista comunitaria, anche l'addetta stampa della Tudor, Elisa, si è unita alla nostra chiacchierata, più che intervista, con Matteo Trentin, che c'era stato... L'intervista smarrita e poi recuperata. E poi recuperata, grazie a un'altra squadra, oggi un intreccio... Davvero inquietante anche questo. Matteo Trentin e la chiacchierata di stamattina a Fiera di Primiero. Ciao, sono Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling, mi stavo facendo gli affaracci miei e mi hanno costretto a venire a parlare con questi due personaggi di, non mi ricordo nemmeno come si chiama questo podcast, pensa quanto sono incazzato. Giro, apre l'aurola. Matteo Trentin, buongiorno, come stai per prima cosa? Ma dai, abbastanza bene, un po' di raffreddore, un po' di acciacchi normali durante un grande giro con cambi di temperature repentini negli ultimi giorni. Però siamo vicini a casa, dai, ci si sente un po' di aria domestica. Sì, sì, dai, no, ieri ero più vicino, ieri il Passo Broccone è vicino a casa mia, quindi è stato anche bello vedere amici e parenti sulle strade. Allora, cominciamo con una cosa che di solito facciamo alla fine. In questo giro stiamo facendo delle interviste di Sant'Antonio, diciamo noi, cioè chiediamo ai corridori di suggerirci il corridore da intervistare la volta successiva. Il tuo nome ce l'ha suggerito Michele Onorè, che ti ha indicato come uno dei punti di riferimento, esempi del gruppo. Questa cosa ti fa onore o ti fa sentire anche un po' vecchio? Vecchio. Vabbè, mi fa piacere sicuramente, oltre ad essere vecchio. In questo ciclismo tu hai attraversato tante epoche diverse, ti trovi a tuo agio? C'è qualcosa che ti manca dell'epoca precedente? Senti di poter dare qualcosa ancora? Ma sì, mi trovo a mio agio, sì, sicuramente. Dell'epoca precedente mi manca un po' il rispetto reciproco tra di noi, tante volte viene buttato un po' nel cestino per favorire la performance e delle volte ci mettiamo in pericolo da soli per motivi assolutamente stupidi. Dici tra colleghi, sì, manca tra un po' di rischio. Tra colleghi, ma tutti quanti, sai, ormai il gruppo ha un livello medio impressionante rispetto magari già a 5-6 anni fa, l'era pre-Covid, diciamo, e quindi tutti quanti riescono a spingere qualcosina in più per guadagnare la posizione prima di una certa curva, per restare davanti, per tutte queste situazioni qui. E quindi ovviamente delle volte dici, ma se tocchiamo i freni una volta in più non cambia niente, tanto hai visto qua il giro, se si arriva in salita vince Pogacar, quindi. A proposito, visto che l'hai menzionato, sei stato anche suo compagno di squadra. Come vedi questo suo dominio ormai totale sul giro? È una cosa positiva o ha anche degli aspetti un po' da rivedere? Aspetti da rivedere. Ci sono tanti che dicono, ma qui, ma lì, ma su, ma giù. Alla fine, se guardi il tour l'anno scorso, c'era lui secondo a 7 minuti da Vingegaard e il terzo era a 13 minuti, una cosa del genere. Quindi siamo in un ciclismo dove hai 4 o 5 corridori che sono uno scalino superiore a tutti gli altri, e se ci sono loro sai che batterli sarà molto difficile. Se non c'è uno dei loro nemici personali, purtroppo o per fortuna risulta così, insomma, se non c'è Vingegaard e Evenepoel per adesso secondo me deve ancora dimostrare di poter stare con loro due in un grande giro. Un Roglic al top del top probabilmente sì, e abbiamo finito i corridori già. A Genova abbiamo visto la tua famiglia e i tuoi figli. Sì. C'è uno che è proprio identico a te, il più grande, credo. Sì, sì, sì. Vanno già in bici? E sì, vanno in bici, vanno in bici. Io li ho intervistati, gli ho chiesto se andavano più forte di te, ma hanno detto di no. Vabbè, vediamo, vediamo. Ma sei contento se loro intraprendono questa strada? Ma sì, l'unica cosa che mi spaventa è purtroppo adesso per fare ciclista su strada devi andare su strada. Questo è il grosso problema e non è solo mio, sarà il problema del ciclismo dei prossimi anni. Se non ci diamo una regolata, voglio vedere chi manda il proprio figlio a fare ciclista su strada. Lo so che sei compagno di stanza di Alberto e siete molto diversi. Come fate a organizzarvi con le vostre abitudini, no, anche gli orari, per esempio, di sveglia al mattino? Ah beh, lui va a dormire, io spengo le luci e me ne sto per gli affari miei. E lui si alza, va a far colazione e io dormo. Semplice, mi sembra funzionale. Facilissimo. Beh, non è diverso da noi comunque come organizzazione. Eh? Il mio ruguardo pure il cuscino, ah, non se ne è neanche accorto. Aggiungiamo, c'è un'indiscrezione. È successo per sbaglio una volta. Cosa ha fatto per sbaglio? No, non ha fatto niente lui. Il signore polizia hanno scambiato i cuscini. Io non me ne ero accorto, lui dormiva, dove è il mio cuscino? Dove è il mio cuscino? Pensavo me lo sarò preso, invece stava dormendo lui. E anche beatamente aggiungerei. Allora, ti ringraziamo Matteo, grazie e auguri per la fine di questo giro e per il resto. Grazie a voi, stagione. Grazie a voi, ciao. E questo era oggi, era Fiera di Primiero, domani c'è un'altra tappa, la 19ª, 156 km da Mortegliano, dove si trova il campanile più alto d'Italia, a Sappada, dove si trovano campanili più bassi, immagino. I primi... Sei d'accordo, Filippo? Sono d'accordo. Cioè, poi non vorrei tirare in mezzo inquietanti verità in questa cosa. I primi 80 km, dicevo, saranno piuttosto tranquilli. I GPM di Passo Duron e Sella Valcalda, però, movimenteranno la corsa finché non si attacca nei pressi di Forni a Voltri, Cima Sappada. Terra di biathlon, terra da ultimi chilometri, 3, al 9% circa. Finale tosto, ma non duro. Tra i meno 2 e il chilometro finale c'è una salitella al 6%, poi la strada spiana fino all'arrivo. Potrebbe essere una tappa da fuga, forse l'ultima, in cui se la potranno giocare gli attaccanti. Passo subito al pronostico, il Vai, mio dritto. Pronostico. Un noto attaccante che al Giro d'Italia ha già vinto, in fuga e in Friuli, e nella terza settimana, io dico Ian Tratnik. Bel nome, bravo Michele Pelacci. Io voglio cambiare il mio pronostico. Così, mi ero fissato un nome, ma lo cambio. Perdonatemi, spero di non così scombinare la scaletta in questo momento. Però cambio restando nella stessa squadra del nome che avevo pensato e domani dico che vince Emmanuel Gebrey-Xavier. Sarebbe molto bello, quindi tutti d'accordo sul fatto che domani arriva la fuga. Pogacar l'ha detto, ce l'ha detto abbastanza. Pogacar, cioè, chiaramente poi magari la UAE vuole far andare via la fuga, ma ci sono altre squadre che invece hanno idee diverse per la tappa di domani. C'è anche un'ipotesi che Pogacar, su cui non si è sbottonato, ha detto che domani arriva la fuga, magari va in fuga. Anche potrebbe partire al chilometro zero Pogacar insieme a Gebrey-Xavier, sì, e altri tre sodali e vincere o così provarci almeno, poi magari viene battuto da maestri. Anche questa ipotesi che non scarterei, ma vi dico il mio nome, che per domani è quello di Damiano Caruso, sempre dalla fuga. Molto bene, molto bene. Abbiamo messo Anil Koski, oggi ci sta a mettere Caruso e stiamo sempre in ambito di Polonia. Proseguiamo nella nostra cavalcata tra le praterie di questo Giro d'Italia che è rappresentata da questo podcast che va verso la sua conclusione. Sentite una musica in sottofondo forse. Cani vive sempre avventura e scrive i libri della sua avventura. Ah sì, ce l'ho questo disco. È uno dei nuovi singoli di Luca Pedalini, si chiama Biciclette e Vulcani. Temo che possa riguardare uno di noi tre. Chissà chi, chissà chi. Si fondono in un solo colore l'anima del sud. Perché guardandolo da non lo sapevo su YouTube, sì, c'è anche la versione, non dico karaoke perché purtroppo non c'è la base MIDI, la però lyric version, la lyric version, partito il ritornello. Ma io non sogno di cantare al concorso dell'Eurovisione. Vabbè. Vabbè, bene, comunque, bene, portiamocela come sottofondo fino alla fine di questa puntata. Sì, la lasciamo e in fino sottofondo alla fine di questo Giro d'Italia. E fino alla fine dei tempi, anche se volete, ma ce ne sono altre tre che sono uscite oggi, perché l'EP è uscito tutto oggi. Ah, non un so EP. Qual è un EP con sette brani. Gli altri si intitolano Vittoria sulla strada, che è un inno nostalgico al ciclismo di quando gli italiani vincevano. Poi c'è, attenzione, Il Giro d'Italia, che è una canzone, un po' un inno all'entusiasmo in generale che il giro suscita. E poi leggo anche Il mio amico Kautz con il featuring di Lucia Corsini, che non conosco. Oh, ma che emozione! Non sapevo quindi, che Lucia. Ciao Lucia. Quindi esiste una canzone praticamente per ciascuno di noi, e da stasera sono tutte disponibili sul canale YouTube di Luca Pedalini, che non so se ringraziare o denunciare. Io comunque rinnovo il mio saluto a Lucia Corsini, la salutiamo in questo momento, la saluteremo nei nostri canali social. Non so, Michele Pelacci, hai in programma dei tweet su Lucia Corsini? No, ma su Il mio amico Kautz probabilmente sì, probabilmente imparerò a memoria questa canzone pazzesca. Domani leggerò la newsletter di Al Vento come sempre, leggerò i tweet di Bidon di Al Vento e tutto ciò che scrivono i nostri ascoltatori, ascoltatrici sul gruppo Telegram, i gruppi Telegram. Cose tra l'altro interessantissime, purtroppo non abbiamo avuto tempo, ma c'è stata una minuziosa ricostruzione sulla partecipazione dei Templari al Giro d'Italia. Avremmo voluto leggervela tutta, ma ci voleva una puntata intera. Va bene, meglio che cominciamo ad avviarci verso la sede della nostra cena. Permanenza, cena notturna. Spera cena, anche perché abbiamo beccato il buffet già chiuso, abbiamo beccato un piccolo richiamino di buffet, ma dufo caccine, è ora di mettere qualcosa nello stomaco. Lo faremo nella ridente Concordia Sagittaria, vicino a Portogruaro. Michele, sai perché si chiama Sagittaria? No. Si chiamava solo Concordia fino al 1868, quando un regio decreto ne determina l'appellativo di Concordia Sagittaria, riferendosi all'antica fabbrica di frecce romane, quindi in latino sagitte, che si trovava lì, insomma, all'inizio del IV secolo d.C. Me l'ha detto un altro professore, il professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia, che è stato il mio supervisore a Padova sia per la tesi magistrale che per il dottorato di ricerca. Lo saluto, lo ringrazio, oggi è stata una giornata piena di emozioni per me. In un'altra vita io sono un ricercatore di demografia e non sarei qui a fare questo podcast insieme a voi, forse sarebbe un bene per tutti quanti. Puntata piena di sindaci, di professori e di chi più ne ha più ne metta. Concludiamola con un saluto e ci rivediamo domani dal Friuli. Mandi. Ciao.